sfioro l'idea di realizzare compositivamente una canzone da cantare in coro, però mi rendo altresì conto quasi immediatamente che momentaneamente sto da solo, e per cantare in coro il presupposto necessario mi sembra anche normale che ci sia più di una voce a far da controcanto a quella che fa il tema principale. Qui almeno al momento la situazione non mi sembra proprio per la quale, ma credo, o quantomeno spero, che in ogni caso qualche cosa la si può pure provare a fare. Se magari qualcheduno si vuole improvvisare al ruolo di corista occasionale in questa circostanza certo un po' particolare, che se poi il pezzo viene ci faremo una cantata tutti insieme, e a cantare di certo non fa male, non dico che ci fa passare i guai, ma certamente ci tiene più sul morale. Forza allora, proviamoci a provare a far venire fuori una canzone da cantare. Dai tutti dietro a me che ho appena avuto ispirazione, baciato sulla fronte dall'idea di una melodica intuizione che fa la ira. Apprezzabile l'impegno, però mi duole dire che il pezzo in questione ancora non va bene. Quindi ritengo necessario il dovere affinare la tecnica vocale, quel tanto che basta per provare nuovamente a farci realizzare una canzone in coro per l'appunto e per la quale c'è da stare con la concentrazione al punto giusto per far sì che la canzone durante l'esecuzione non ci possa venir male. Forza allora, riproviamoci a provare a far venire fuori una canzone da cantare. Di nuovo dietro a me che ho appena avuto ispirazione, baciato sulla fronte dall'idea di una melodica invenzione che fa l'aira. Finalmente la canzone che sorprendentemente ci è venuta proprio bene, così va bene, e finalmente la possiamo cantare tutti quanti insieme là.